Il sabato, poi, quando arrivava il giornale, don Franco spingevasi sino ad accendere mezz'ora ed anche un'ora di candela, a rischio di farsi sgridare dalla moglie, onde spiattellare le sue idee e non andare a letto a mo' dei bruti, come compare Cipolla o compare Malavoglia. L'estate, poi, non c'era neppur bisogno della candela, giacché si poteva star sull'uscio, sotto il lampione, quando Mastro Cirino l'accendeva, e qualche volta veniva don Michele, il brigadiere delle guardie doganali. E anche don Silvestro, il segretario comunale, tornando dalla vigna, si fermava un momento. Allora don Franco diceva, fregandosi le mani, che pareva un piccolo parlamento, e andava a piantarsi dietro il banco, pettinandosi con le dita la barbona, con certo sorriso furbo che pareva si volesse mangiare qualcuno a colazione. E alle volte si lasciava scappare sottovoce delle mezze parole dinanzi alla gente, rizzandosi sulle gambette, e si vedeva che la sapeva più lunga degli altri, tanto che don Gianmaria non poteva patirlo e ci si mangiava il fegato e gli sputava in faccia parole latine. Don Silvestro, lui, si divertiva a vedere come si guastavano il sangue per raddrizzare le gambe ai cani, senza guadagnarci un centesimo. Egli, almeno, non era arrabbiato come loro e per questo, dicevano in paese, possedeva le più belle chiuse di Trezza, dove era venuto senza scarpe ai piedi, aggiungeva Piedipapera. Ehi, li aizzava l'un contro l'altro, e rideva a crepapancia con degli ha ha ha che sembrava una gallina. «Ecco Don Silvestro che fa l'uovo», osservò il figlio della Locca. «Don Silvestro fa le uova d'oro laggiù al municipio», rispose Piedipapera. «Hm», sputò fuori Padron Fortunato. «Pezzenterie, comare Zuppidda non gli ha voluto dare la figliuola». «Vuol dire che Mastro Turi Zuppiddu preferisce le uova delle sue galline», rispose Padron Ntoni. E padron Cipolla disse di sì col capo. «Ntroi, ntroi, ciascuno coi pari suoi», aggiunse padron Malavoglia. Piedipapera allora ribatté che se don Silvestro si fosse contentato di stare coi suoi pari, a quest'ora ci avrebbe la zappa in mano invece della penna. «Che ce la dareste voi, vostra nipote Mena?» disse alfin padron Cipolla, volgendosi a padron Ntoni. «Ognuno all'arte sua, e il lupo alle pecore». Padron Cipolla continuava a dir di sì col capo, tanto più che fra lui e padron Ntoni c'era stata qualche parola di maritar la Mena con suo figlio Brasi, e se il negozio dei lupini andava bene, la Mena avrebbe avuto la sua dote in contante e l'affare si sarebbe conchiuso presto. «La ragazza com'è educata e la stoppa com'è filata», disse infine padron Malavoglia, e padron Cipolla confermò che tutti lo sapevano in paese che la Longa aveva saputo educarla la figliuola. E ognuno che passava per la stradicciuola a quell'ora, udendo il colpettare del telaio di Sant'Agata, diceva che l'olio della candela non lo perdeva, comare Maruzza. La Longa, come era tornata a casa, aveva acceso il lume e s'era messa con l'arcolaio sul ballatoio a riempire certi cannelli che le servivano per l'ordito della settimana. Comare Mena non si vede, ma si sente, e sta al telaio notte e giorno, come Sant'Agata, dicevano le vicine. «Le ragazze devono avvezzarsi a quel modo», rispondeva Maruzza, «invece di stare alla finestra. A donna alla finestra non far festa». «Certune, però, con lo stare alla finestra, un marito se lo pescano, fra tanti che passano», osservò la cugina Anna dall'uscio di rimpetto. La cugina Anna aveva ragione da vendere, perché quel bietolone di suo figlio Rocco si era lasciato irretire dentro le gonnelle della mangiacarrubbe, una di quelle che stanno alla finestra con la faccia tosta. Comare Grazia Piedipapera, sentendo che nella strada c'era conversazione, si affacciò anch'essa sull'uscio, col grembiule gonfio delle fave che stava sgusciando, e se la pigliava coi topi che le avevano bucherellato il sacco come un colabrodo, e pareva che l'avessero fatta apposta, come se ci avessero il giudizio dei cristiani. Così il discorso si fece generale, perché alla Maruzza gliene avevano fatto tanto del danno, quelle bestie scomunicate. La cugina Anna ne aveva la casa piena da che gli era morto il gatto. Una bestia che valeva tant'oro ed era morto di una pedata di compare Tino. «I gatti grigi sono i migliori per acchiappare i topi e andrebbero a scovarli in una cruna di ago». Ai gatti non conveniva aprire l'uscio di notte, perché una vecchia di Aci Sant'Antonio l'avevano ammazzata così, che i ladri le avevano rubato il gatto 3 giorni avanti e poi glielo avevano riportato mezzo morto di fame a miagolare dietro l'uscio. E la povera donna, non sentendosi il cuore di lasciar la bestiola sulla strada a quell'ora, aveva aperto l'uscio, e così s'era ficcati i ladri in casa. Al giorno d'oggi, i mariuoli ne inventano di ogni specie per fare i loro tiri, e a Trezza si vedevano delle facce che non si erano mai viste sugli scogli, col pretesto d'andare a pescare, e arraffavano la biancheria messa ad asciugare, se capitava. Alla povera Nunziata gli avevano rubato in quel modo un lenzuolo nuovo. Povera ragazza, rubare a lei che lavorava per dar pane a tutti quei fratellini che suo padre le aveva lasciato sulle spalle, quando l'aveva piantata per andare a cercar fortuna ad Alessandria d'Egitto. Nunziata era come la cugina Anna, quando le era morto il marito e le aveva lasciato quella nidiata di figliuoli, che Rocco, il più grandicello, non gli arrivava alle ginocchia. Poi alla cugina Anna le era toccato di tirar su quel fannullone per vederselo rubare dalla mangiacarrubbe. In mezzo a quel chiacchierio saltò su la Zuppidda, la moglie di Mastro Turi il Calafato, la quale stava in fondo alla straduccia e compariva sempre all'improvviso, per dire la sua, come il diavolo nella litania, che nessuno s'accorgeva di dove fosse sbucata. «Del resto», venne a brontolare, «vostro figlio Rocco non vi ha aiutata neppur lui, che se si è buscato un soldo è andato subito a berla all'osteria». La Zuppidda sapeva tutto quello che succedeva in paese e per questo raccontavano che andava tutto il giorno in giro a piedi scalzi a far la spia, col pretesto del suo fuso, che lo teneva sempre in aria perché non frullasse sui sassi. Ella diceva sempre la verità come il santo evangelio, questo era il suo vizio, e perciò la gente che non amava sentirsela cantare l'accusava di essere una lingua d'inferno, di quelle che lasciano la bava. Bocca amara sputa fiele, ed ella ci aveva la bocca amara davvero per quella sua Barbara che non aveva potuto maritare, tanto era superba e sgarbata, e con tutto ciò voleva dargli il figlio di Vittorio Emanuele. «Bel pezzo, la mangiacarrubbe», seguitava, «una sfacciata che si è fatto passare tutto il paese sotto la finestra. A donna alla finestra non far festa, e Vanni Pizzuto le portava in regalo i fichi d'India rubati a Massaro Filippo l'ortolano, e se li mangiavano insieme nella vigna, sotto il mandorlo, li aveva visti lei». E Peppinaso, il beccaio, dopo che gli spuntò la gelosia di compare Mariano Cinghialente, il carrettiere, andava a buttarle dietro l'uscio tutte le corna delle bestie che macellava, sicché dicevano che andava a pettinarsi sotto la finestra della mangiacarrubbe. Quel cuor contento della cugina Anna, invece, la prendeva allegra. «Don Gianmaria dice che fate peccato mortale a sparlar del prossimo». «Don Gianmaria dovrebbe piuttosto far la predica a sua sorella Donna Rosolina», rispose la Zuppidda, «e non lasciarle far la ragazzetta con Don Silvestro quando passa e con Don Michele il brigadiere, che ci ha la rabbia del marito, con tutti quegli anni e quella carne che ci ha addosso, la poveraccia». «Alla volontà di Dio», concluse la cugina Anna. «Quando è morto mio marito, Rocco non era più alto di questa conocchia e le sue sorelline erano tutte minori di lui. Forse che mi son perduta d'animo per questo. Ai guai, ci si fa il callo e poi ci aiutano a lavorare. Le mie figliuole faranno come ho fatto io e finché ci saranno le pietre al lavatoio avremo di che vivere. Guardate l'Annunziata, ora ella ha più giudizio di una vecchietta e si aiuta a tirar su quei piccini che pare li abbia fatti lei». «E dov'è l'Annunziata che non si vede ancora?» domandò la longa a un mucchio di monelli cenciosi messi a piagnucolare sulla soglia della casuccia lì di faccia, i quali, al sentir parlare della sorella, alzarono gli strilli in coro. «L'ho vista che andava sulla sciara a fare due fasci di ginestre, e c'era pure vostro figlio Alessi che l'accompagnava», rispose la cugina Anna. I bambini stettero a sentire, e poi si rimisero a pigolare tutti in una volta, e il più grandicello, appollaiato su di un gran sasso, rispose dopo un pezzetto: «Non lo so dov'è». Le vicine avevano fatto come le lumache quando piove e lungo la straduccia non si udiva che un continuo chiacchierio da un uscio all'altro. Persino la finestra di compare Alfio Mosca, quello del carro dell'asino, era aperta e ne usciva un gran fumo di ginestre. La mena aveva lasciato il telaio e s'era affacciata al ballatoio anch'essa. «Oh, Sant'Agata!» esclamarono le vicine e tutte le facevano festa. «Che, non ci pensate a maritar la vostra mena?» chiedeva sottovoce la Zuppidda a comare Maruzza. «Oramai deve compiere 18 anni a Pasqua, lo so perché è nata l'anno del terremoto, come mia figlia Barbara. Chi vuol pigliarsi mia figlia Barbara, prima deve piacere a me». In questo momento si udì un fruscio di frasche per la via e arrivarono Alessi e l'Annunziata, che non si vedevano sotto i fasci di ginestre, tanto erano piccini. «Oh, l'Annunziata!» esclamarono le vicine. «Che, non avevi paura a quest'ora nella sciara?» «C'ero anch'io»,

Don Franco, dalla sua bottega, sghignazzava alle loro spalle a voce alta, cercando di imitare la risata di Don Silvestro, che faceva andare in bestia la gente. Ma lo speziale era della setta, e si sapeva, e Don Giammaria gli gridava dalla piazza: «I denari li trovereste se si trattasse di scuole di lampioni!» Lo speziale stette zitto, perché si era affacciata sua moglie alla finestra. E lo zio Crocifisso, quando fu abbastanza lontano da non temere che l'udisse Don Silvestro il segretario, il quale si beccava anche quel po' di stipendio di maestro elementare, «A me non me ne importa», ripeteva, «ma ai miei tempi non c'erano tanti lampioni, né tante scuole, non si faceva bere l'asino per forza e si stava meglio». «A scuola non ci siete stato voi, eppure i vostri affari ve li sapete fare». «E il mio catechismo lo so», aggiunse lo zio Crocifisso, per non restare in debito. Nel calore della disputa, Don Giammaria aveva perso il battuto, sul quale avrebbe attraversato la piazza anche ad occhi chiusi, e stava per rompersi il collo e lasciar scappare, Dio perdoni, una parola grossa. «Almeno l'accendessero, i loro lumi!» «Al giorno d'oggi bisogna badare ai fatti propri», conchiuse lo zio Crocifisso. Don Giammaria andava tirandolo per la manica del giubbone per dire corna di questo e di quell'altro, in mezzo alla piazza, all'oscuro. Del lumaio che rubava l'olio, di Don Silvestro che chiudeva un occhio e del sindaco Giufà che si lasciava menare per il naso. Mastro Cirino, ora che era impiegato del comune, faceva il sagrestano come Giuda, che suonava l'Angelus quando non aveva nulla da fare, e il vino per la messa lo comperava di quello che aveva bevuto sulla croce Gesù Crocifisso, che era un vero sacrilegio. Campana di Legno diceva sempre di sì col capo per abitudine, sebbene non si vedessero in faccia, e Don Giammaria, come li passava a rassegna ad uno, diceva: «Costui è un ladro, quello è un birbante, quell'altro è un giacobino. Lo sentite Piedipapera che sta discorrendo con padron Malavoglia e padron Cipolla? Un altro della setta colui, un arruffapopolo con quella gamba storta». E quando lo vedeva arrancare per la piazza, faceva il giro lungo e lo seguiva con occhi sospettosi, per scovare cosa stesse macchinando con quell'andatura. «Quello là ha il piede del diavolo», borbottava. Lo zio Crocifisso si stringeva nelle spalle e tornava a ripetere che egli era un galantuomo e non voleva entrarci. «Padron Cipolla, un altro sciocco, un pallone di vento colui che si lasciava abbindolare da Piedipapera. Ed anche padron Toni, ci sarebbe cascato anche lui. Bisogna aspettarsi tutto al giorno d'oggi». «Chi è galantuomo? Bada ai fatti suoi», ripeteva lo zio Crocifisso. Invece, compare Tino, seduto come un presidente sugli scalini della chiesa, sputava sentenze. «Sentite a me, prima della rivoluzione era tutto un'altra cosa. Adesso i pesci sono maliziati, ve lo dico io». «No, le acciughe sentono il grecale 24 ore prima di arrivare», riprendeva padron Toni. «È sempre stato così. L'acciuga è un pesce che ha più giudizio del tonno. Ora, di là del capo dei mulini, li scopano dal mare tutti in una volta, con le reti fitte». «Ve lo dico io cos'è», ripigliò compare Fortunato. «Sono quei maledetti vapori che vanno e vengono e battono l'acqua con le loro ruote. Cosa volete? I pesci si spaventano e non si fanno più vedere. Ecco cos'è». Il figlio della Locca stava ad ascoltare a bocca aperta e si grattava il capo. «Bravo», disse poi. «Così i pesci non se ne troverebbero più nemmeno a Siracusa né a Messina, dove vanno i vapori. Invece li portano di là a quintali con la ferrovia». «Insomma, sbrigatevela voi», esclamò allora padron Cipolla indispettito. «Io me ne lavo le mani e non me ne importa un fico, giacché ci ho le mie chiuse e le mie vigne che mi danno il pane». E Piedipapera assestò uno scapaccione al figlio della Locca per insegnargli l'educazione. «Bestia, quando parlano i più vecchi di te, sta zitto». Il ragazzaccio, allora, se ne andò strillando e dandosi dei pugni nella testa, che tutti lo pigliavano per minchione perché era figlio della Locca. E padron Toni, col naso in aria, osservò: «Se il maestrale non si mette prima della mezzanotte, la provvidenza avrà tempo di girare il capo». Dall'alto del campanile caddero lenti lenti dei rintocchi sonori. «Un'ora di notte», osservò padron Cipolla. Padron Toni si fece la croce e rispose: «Pace ai vivi e riposo ai morti». «Don Giammaria ha i vermicelli fritti per la cena stasera», osservò Piedipapera, fiutando verso le finestre della parrocchia. Don Giammaria, passandogli vicino per andare a casa, salutò anche Piedipapera, perché ai tempi che corrono bisogna tenersi amici quelle buone lane.